intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo. Vieni con me, sali a bordo del mio jet, voli in esclusiva, chi non c'è non c'è. Alle 5 a Londra si beve il tè e insieme alla regina saremo in tre. Polo nord, polo sud, giro in Perù, Istanbul, fine in India in una tribù. Neanche 12 ore da bordo a Singapore, rompo il muro del suono finché non fodo al motore. E tu impara il lessico, infradito e sombrero in Messico. Giro posti che non hai mai visto, piramidi in Egitto e terra sopra San Francisco. Alla faccia di chi vive senza, alla vita di chi non si ferma. È un punto di arrivo e mai di partenza, e volo fino a quando non finisco la benza. Intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo. Adriatico, oltre c'era come l'off-boat nell'Atlantico. Ti parto a vedere la corrida a Madrid, o rimaniamo in nave se ti piace così. Con gli amici, gita sul Tamigi, la notte a Parigi, divi come nei film. E io lo so che da un po' che ci tieni, il party si fa sulla spiaggia Miami. Dal Ghana alla Havana in una settimana, dimmi cosa fai, non vieni? Ogni giorno una meta diversa, io e te su una gondola a Venezia. Abbracciati su un motoscafo, fidati, sarò il tuo Leonardo DiCaprio. Intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo, intorno al mondo. E via dritti nello spazio, sparati dallo shuttle, a 0G nella galassia, salutiamo ET. Altro che fare sport, noi siamo around the world, alieni come Mork, sono capitano, chiamami Spock. Da Marte a Giove a Venere serve un atterraggio di fortuna, qui le buche ci sono, prendi le mazze, giochiamo a gol sulla luna. Da un posto all'altro basta solo un salto come in Jumper, in 80 giorni non giri sto mondo se rimani su quel camper.